Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Al comma 199, dopo le parole amministra gli, inserire le seguenti: importi di cui sì, assunzione in Calabria duplicate, cioè una mera duplicazione del testo e non sono assunzioni. Presidente, io credo che sia assolutamente da escludere che si possa immediatamente accettare quello che è stato proposto ora dal governo. Io le chiedo quindi formalmente che si sospenda l'aula. Che ne è della pagina dove ci sono i commi dal 412 in poi? Questa pagina ho controllato, è così dappertutto, è mezza bianca. Però c'è scritto che ci sono i commi 413, 414, 15, 16 e 17. Alle 8 e 11 minuti, cioè quando la discussione generale era ampiamente iniziata, il governo aveva ampiamente messo la fiducia, ci è stato detto che il 416 e il 417 avevano un certo testo. Mi chiedo se il 415, 414, 413, che qui figurano con un foglio bianco, così come sul foglio delle 20 e 11, sono da includere o non sono da includere. Il tema che è stato sollevato con un certo pathos in questo momento è stato risolto nel pomeriggio. Quello è un errore di fotocopiatura degli uffici del Senato. Sono brandelli del dibattito che questa notte al Senato hanno preceduto l'approvazione della legge di stabilità che, con una nuova maggioranza, come tutti sappiamo, ha segnato la fine delle larghe intese e il passaggio di Berlusconi all'opposizione. 800 24 00 24 per chi vuole telefonare, 349 238 6666 per gli sms. Allora, Mario Secchi, ieri è nato un nuovo centrosinistra. Buongiorno. È ancora presto per dargli una definizione, diciamo, politica, perché bisogna vedere quale sarà appunto la cifra politica di questo governo, che di fatto è un nuovo esperimento, diciamo. Certamente le intese si sono ristrette, non sono più larghe. Ah, questo, certo. Questo è evidente. Poi daremo un giudizio su che cosa farà d'ora in poi, a cominciare dalla legge di stabilità, che insomma, che poi analizzeremo, ecco. Ma il governo Letta è più forte o no dopo l'uscita di Forza Italia, secondo te, Pietrangelo? Buongiorno. Il governo Letta non è mai stato forte. È nato su un principio di realtà, su un principio di necessità, e il fatto stesso che adesso non siamo in grado neppure di immaginare quale sia la collocazione anche rispetto alle caselle ideologiche di destra e di sinistra ci conferma e dimostra che la situazione è per forza di cose provvisoria, lo è stato da sempre, a maggior ragione adesso, anzi, paradossalmente forse è meno ambigua la situazione, è molto più chiara, è molto più chiara perché se n'è andato via Berlusconi e se ne andrà via tra po', dopo l'8 dicembre, perfino Renzi. Questo lo vedremo, naturalmente. Mario, dopo questo voto sulla legge di stabilità, Alfano e Berlusconi sono definitivamente su traiettorie diverse? Questa è la domanda delle domande. Diciamo infatti, che oggi, no? Perché noi dobbiamo valutare metro per metro ormai la situazione. Oggi sì, sono su strade diverse. Domani però io non escluderei che vadano in coalizione. Dipende anche dalla legge elettorale con la quale un giorno se si riuscirà a fare. Esatto, ecco, si andrà a votare. Quindi dipende. Per esempio ci sono usciti due sondaggi che dicono che se vanno insieme hanno in un sondaggio Tecne 5 punti di vantaggio, in un sondaggio di SVG 4 punti di vantaggio sul centro-sinistra. Sì, questo all'inizio è sempre così, esatto. Anche poi, la Margherita, no, il PDL, il PD quando si erano divisi, diciamo, no, sembrava che si sommassero. Però a me hanno insegnato che in politica 2 più 2 non fa mai 4. Mai 4. Ecco, Pietrangelo, secondo te Alfano e Berlusconi sono traiettorie diverse definitive? No. Non lo sono mai stati. E credo che Alfano abbia mantenuto questo rapporto, anche se adesso è nascosto nella coltre della propaganda, mantenuto un rapporto filiale nei confronti di Berlusconi. Ma filiale vuol dire politico? Vuol dire soprattutto politico, perché la vera notizia è che Berlusconi ha un grado di insopportabilità saturo rispetto a chi gli sta più vicino, al cosiddetto cerchio magico, perché se il racconto vale e vale, fatto da vicino, sulla psicologia del personaggio, su quello che gli capita, sulla stanchezza, sull'ansia che lo sta divorando, su queste giornate drammatiche, è sicuro che lui ormai non ne può più, ma di non ne può più soprattutto di quelli che avvicina. Ecco, il cerchio non è più magico. Non insomma, è più magico no. Il cerchio, ma insomma, ecco, ma il passaggio, Mario, di tutte quelle sigle con le quali noi abbiamo giocato e scherzato e fatto il nostro tormentone delle tasse, la Tares, la Tarsu, la Trise, l'Imu. Ecco, il passaggio a una tassa sola, lo IUC, la IUC, sarà un'ennesima fregatura oppure... c'è da aspettarsi qualcosa di buono. Ma ieri ho ascoltato un po' di dichiarazioni degli esponenti del governo. Tutti sostengono che la tassazione in realtà diminuirà. Ora però a me hanno insegnato una cosa, che quando tu devolvi, no? Cioè dai agli enti locali la possibilità di usare la leva fiscale, in realtà la storia italiana ci insegna che la pressione fiscale poi è aumentata, per cui io diciamo aspetterei, come i giocatori di biliardo, calma e gesso, di vedere che cosa succede a livello locale appunto con la IUC, poi ne riparliamo. Ecco, vediamo. Abbiamo un sms Enzo da Milano che dice: Alfano e Berlusconi su strade diverse, marketing e basta. Danno un po' ragione a Pietro Angio, ci prendo in giro un'altra volta. Andiamo avanti, dicevi Pietrangelo, secondo te c'è la fregatura o no in questo passaggio di tasse? No. No. Voglio essere ottimista. No, più che ottimista, non vorrei lisciare il pelo dal verso giusto e dico che la situazione, proprio perché dettata da un punto di realtà, costringe a fare determinate manovre che per forza di cose dovranno dare dei risultati, altrimenti nessuno di questi si sarebbe esposto a tal punto. Prima tra tutti non si sarebbe esposto Giorgio Napolitano, che ebbe un patto chiaro e ben definito con i principali attori dei vari partiti politici per riproporre questa situazione su piani che non erano certamente teorici, ideali, ma erano concreti, certo, basati proprio su una necessità. L'Italia sta vivendo una crisi che forse è pari a quella del dopoguerra, e non si può permettere avventure, tantomeno mandare al diavolo, come oggi titola il Corriere della Sera con un editoriale di Pierluigi Battista. Non si può permettere di mandare al diavolo la realtà, un'intera nazione, su Battista, dei giochi di pura politica. Esatto. Beh, sai, tu hai letto Battista, io ieri ho letto l'editoriale di Roberto Napoletano sul Sole 24 Ore, ed era una voce, diciamo, la voce dei ceti produttivi, diciamo, certo, così. Beh, insomma, molto, che... molto critica sulla legge di stabilità, e quello che diceva Minoli, cioè il balletto delle cifre, il balletto delle sigle, chiamiamolo blob che abbiamo fatto sentire, certo, all'inizio della trasmissione, indica oggettivamente una difficoltà a comporre la legge di stabilità. È una difficoltà di... vera? Sì. No, perché qui abbiamo un sms di un nostro ascoltatore che dice: i pagatissimi dipendenti del Senato della Repubblica hanno sbagliato le fotocopie del testo di legge di stabilità, perché bisognava dare la fiducia in bianco. Provo a spiegare un po' come funziona. Comporre una legge di stabilità, una manovra, la vecchia finanziaria, è molto difficile, perché e soprattutto di questi tempi, perché ogni ministero fa le sue richieste, ogni ministero fa i suoi provvedimenti. I provvedimenti poi vengono, si dice, collazionati, vengono messi insieme. Sì. Io ho visto, non mi ricordo quante bozze di quest'ultima legge di stabilità. Ne abbiamo viste tante. E a fianco c'erano anche delle notazioni politiche, che adesso c'era scritto punto critico da discutere. Perché? Perché dovevamo fare una riunione di maggioranza su questo punto, quindi non mi stupisce. Perché erano le larghe intese. Esatto, perché erano le larghe intese. Quindi sotto questo punto di vista, diciamo, se dobbiamo fare analisi politica pura, probabilmente è vero che le intese ristrette, chiamiamole così, sono un elemento di chiarezza e potrebbero paradossalmente facilitare il lavoro di Letta. Ecco. Però ci sono i numeri, Giovanni. Sì. E i numeri al Senato non sono larghi, purtroppo, per il governo. Sono molto stretti. La fiducia di ieri ha messo in evidenza che cosa? Che ci sono una quarantina di voti, forse, di potrebbero differenza. Aumentare, però potrebbero strada aumentare facendo. Strada facendo, ma a me sempre la storia insegna che potrebbero anche diminuire, anche perché diminuire. Abbiamo fatto 171 a 135 praticamente, abbiamo contato ieri noi. Beh, però appena si capirà che non c'è verso aria di arrivare alle elezioni, lì vedrà che questi cambiare. Numeri aumenterà. E lì si vedrà quando poi ci saranno sono i senatori a vita. Sempre, faccio sempre una notazione da ormai vecchio frequentatore delle aule parlamentari del Palazzo, eccetera. Avere numeri così risicati vuol dire che i capi gruppo della maggioranza, della nuova maggioranza, dovranno fare un lavoro incredibile. Molto concretamente, un senatore va al bagno e c'è da votare, te lo devi prendere per la collottola e recuperarlo per farlo votare in aula. Comunque la cosa è sicura, mentre in Italia le larghe intese sono finite, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto ieri, in Germania la Merkel ce l'ha fatta e ha costruito il governo di larghe intese, curiosità della storia. Comunque ieri è capitata anche un'altra cosa, sono arrivate delle carte americane che potrebbero, così sostengono gli avvocati di Berlusconi, potrebbero forse aprire un nuovo scenario giudiziario per l'affare Mediatrade Berlusconi, chissà. Il nostro ordinamento lascia aperta la possibilità di rivedere una sentenza di condanna. Se sopravvengono delle prove nuove, l'ordinamento ammette la possibilità di una revisione. Noi abbiamo sempre sostenuto che, per quanto ci riguarda, a noi risultava un'assoluta regolarità delle compravendite. A Grama non è mai stato socio di Berlusconi. Sono io l'unico socio. Mi aspetto una revisione del processo come per qualsiasi altro cittadino. Ora, non c'è dubbio che il presidente Berlusconi abbia tutto il diritto di chiedere il giudizio di revisione della sentenza di condanna. Il diritto di ritenersi vittima di una sentenza ingiusta, questo non glielo può togliere nessuno. Ecco Mario, ma le carte americane, se verificate vere, potrebbero portare alla revisione del processo? Naturalmente non ha niente a che fare col Parlamento, no. Sede giudiziaria. Beh sì, questo sì, naturalmente anche qui il medley, diciamo, di voci che hai composto è molto interessante. Berlusconi ovviamente ha il diritto di difendersi, ci mancherebbe altro. La decadenza è fatto politico staccato però in questo momento dalla vicenda giudiziaria. C'è chi dice sì, bisogna aspettare la revisione delle carte americane. È una posizione ovviamente processuale e politica, ma non è per forza accoglibile, diciamo, da parte dell'opposizione. D'altronde sono arrivati ormai in limine del dibattito, è veramente una situazione scannatissima dal punto di vista politico. Rapidamente, Pietrangelo, rapidamente, potrebbero? No, non credo più, ma non nell'efficacia dell'analisi delle carte in sé, ma perché il clima è proprio avvelenato. Notavo come ieri nella trasmissione Ballarò, che è comunque la vetrina del regime culturale, veniva alzato il livello dello scontro ragionando intorno al trattamento di fine rapporto che Silvio Berlusconi incasserà dopo essere cacciato via dal Senato. Argomento di demagogia così alto che ovviamente non può consentire l'analisi di alcuna carta. Nessuna serenità. Anche perché naturalmente quello è l'applicazione di una legge che se posso c'è, solo rapidamente perché io faccio notare che noi nel giro di pochissimi mesi, 7 mesi, abbiamo avuto la fine di un governo tecnico, il varo delle larghe intese, la scissione nel partito più grosso che sostiene la maggioranza, le larghe intese che sono diventate strette, la legge di stabilità, la decadenza di uno che è stato presidente del Consiglio un paio di volte, per finire il congresso del PD l'8 dicembre. E ne parleremo naturalmente. Durissima, certo. Una cavalcata durissima. Ecco, per l'eventuale effetto giudiziario delle carte, naturalmente bisogna aspettare il Tribunale di Brescia per capire se il governo è più forte, però... Lo diceva anche Pietrangelo, è necessario ovviamente aspettare l'8 dicembre con le primarie, lì si capirà se Renzi si accontenta di questa nuova legge di stabilità o se forzerà il governo in altre direzioni, forse fino alle elezioni immediate. Un ragazzo di 26 anni, 1300 euro al mese, impiegato all'Esselunga di Bergamo, ha un'idea, mette un sito, calciolibero.it, uno si collegava e si vedeva tutte le partite di calcio senza passare da Sky. Ma lui non guadagnava nulla, ha fatto un servizio. Prendeva le partite dalla Cina, la Cina pagava i diritti d'autore sul calcio a Sky, la Cina metteva in chiaro sul satellite il segnale, questo prendeva il segnale e lo faceva vedere all'italiana, chi voleva vederlo. Non guadagnava nulla, faceva un servizio. Ma Sky viene a saperlo. E allora l'uomo, uno degli uomini più ricchi del mondo, un magnate australiano naturalizzato americano, di nome Murdoch, cosa fa? Manda la polizia in casa di questo ragazzo qua, gli sequestrano il computer, lo denunciano penalmente e civilmente, quindi lo rovinano. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i migliori avvocati civilisti, penalisti d'Italia, pagati con la colletta, e che difenderanno questo ragazzo, e di fronte Murdoch avrà i più grandi penalisti e civilisti che ci sono in Italia, che lo faranno pagati dal blog e gli faranno un culo così alle multinazionali. Era Incantesimo, uno spettacolo di Grillo del 2006, bisogna fare... Dunque, un po' di chiarezza sull'immultinazionale e sui loro interessi. In Italia l'onorevole Boccia ha presentato una legge che si chiama Web Tax, per far pagare le tasse in Italia alle multinazionali, come per esempio Google. Sentiamo esattamente cosa ci ha detto su questa tassa l'onorevole Francesco Boccia ieri. Senta, lei ha proposto la Web Tax. Che cos'è esattamente? È la tassazione di tutti i flussi finanziari prodotti da beni venduti ed erogati sul nostro territorio con piattaforme tecnologiche internazionali. Ecco, insomma, gli americani, per dirla semplice, dicono che lei è contro Google, è vero? No, io non sono contro Google, sono contro coloro che prendono i nostri soldi, li portano via e non li riportano più e qui. E quindi è una tassa... E non pagano tasse. Ecco, quindi è una tassa per mantenere il gettito erariale prodotto dalla rete in Italia. È una imposta per produrre gettito prodotto qui. Io non capisco perché, se noi vendiamo un bene fisico qui, le tasse le incassiamo. Se lo fanno sui servizi imprese italiane, le tasse le incassiamo. Se lo fanno le imprese multinazionali, le tasse non le incassiamo. Ah, ecco, il nostro futuro sarà sempre più dominato dall'economia digitale. Per questo è importante trovare delle regole per gestire questo mercato, che non facciano di questo mercato un far west, come è stato per tanti anni nella televisione, con effetti, come sappiamo, molto dannosi. Andrea Pezzi nel 2006 ha fondato Ovo, una media company. Ecco, Andrea, tu hai una media company, perché sostieni la web tax? Perché il mondo digitale, quello in cui opero io, è un mondo fatto di assenza di spazio, e la regolamentazione e il fisco in generale non si è mai esercitato nel cercare di dare regole ad un mondo che fisicità non ce l'ha, dove i confini anche territoriali non esistono. Ecco, tu dici che grandi aziende come Google, che operano in Italia, impiegano pochissimi dipendenti. Quanti? Ma sì, qui ci sono credo più o meno 80, non di più. Devi considerare però che le stime del loro fatturato in Italia, ancora una volta nell'era del digitale è tutto, dovrebbe essere trasparente, non si sa quanto fattura veramente Google e queste grandi over the top, si aggira attorno, si potrebbe aggirare sopra il miliardo. In lo Italia? Sai meglio di tutti. In Italia, la Rai lo sai meglio di tutti, con un fatturato poco superiore a quello dà lavoro a più di 10.000 persone, quindi fa abbastanza sorridere. Sì, forse un po' troppo la Rai. Senti, quante persone invece lavorano per te? Io ho 14 persone più 200 ragazzi in giro per il mondo che fanno i creativi e producono contenuti, e 30 autori che lavorano da casa loro ma per noi in Italia. E quanto fatturi? Noi facciamo 5 milioni con 1,8 milioni di EBITDA quest'anno. Senti, perché parli del rischio di un'emorragia digitale? Emorragia digitale perché la, appunto, gestione attraverso piattaforme, si chiamano tecnicamente di programmatic buying, di pubblicità digitale direttamente da Londra e da New York, sta prosciugando come se fosse un lago il mercato pubblicitario italiano, che 3 anni fa era di 8 miliardi, quest'anno è di 6 miliardi. E vanno tutti all'estero, quindi questi miliardi. Vengono comprati e fatturati dall'estero. Quindi di anno in anno quelli che fanno il nostro mestiere, il mestiere di chi fa impresa, di chi, i giornalisti, i creativi, hanno sempre meno risorse, quindi sempre meno possono essere gli stipendi che vengono pagati, eccetera, eccetera, e i creativi non lavorano più perché nessuno dà più, e Google non dà soldi ai creativi italiani, mentre la Rai, Mediaset e tutti gli altri lo fanno perché devono anche investire nel mercato dove raccolgono. Senti, questo non succede. Tu dici che le aziende che oggi operano nel settore vampirizzano l'economia del paese. È un po' questo che stai dicendo? Ma il meccanismo è questo? Ti citerò la frase che il capo trading di un grande centro media mondiale a New York non più di 5 mesi fa mi ha detto: l'Italia, come altri paesi europei, sono una sorta di pascolo di pecore a cui non stiamo più dando da mangiare, le tosiamo finché producono pelo e poi alla fine le lasceremo a loro stesse, perché ormai la pubblicità si sta trasferendo tutta come centrali d'acquisto nelle grandi capitali internazionali. Quindi siamo un parco boy, siamo direbbe. Un parco boy, perfettamente. Grazie. Un piacere. Ecco, avvocato Luca Scordino, consigliere di gestione della SIAE. Prima della pubblicità, una domanda, poi continuiamo dopo. Ma le pecore che vengono tosate sono i creativi, gli autori italiani? Siamo noi? Buongiorno, direi proprio di sì, quantomeno nel senso che della continua privazione di opportunità e di parità di condizioni. Guardi, poco tempo fa, recentemente, proprio Catricalà, il viceministro dello sviluppo economico, intervenendo sul tema, ha detto che i soggetti attivi sul web devono investire in Italia e in Europa come investono i nostri produttori. Poi però in realtà Catricalà è sparito perché è evidente che si schiera a favore delle multinazionali, dei produttori di telefonini contro gli autori, per evitare che in realtà l'hardware, cioè chi produce l'hardware, paghi il diritto d'autore. In Italia si vendono 37 milioni di smartphone e però non si vuole pagare il diritto d'autore. Vabbè, questo glielo chiederemo. 800 24 00 24 349 238 6666 per l'SMS. Dopo la pubblicità continuiamo con l'avvocato Scordino. Mix 24 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Stiamo parlando con l'avvocato Luca Scordino, consigliere di gestione della SIAE e della Web Tax. Ecco, avvocato, in questo sistema digitale immateriale come si difende il diritto d'autore? Intanto va difeso? Ma assolutamente sì, e si difende anzitutto contrastando la pirateria. Io ricordo che 8 italiani su 10, secondo le ricerche più recenti, scaricano, come si suol dire, illegalmente in Italia. Ieri è successo un fatto importantissimo, perché l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia per la prima volta ha rotto il fronte, sostenendo il fronte contrario alla tutela del diritto d'autore, sostenendo che in realtà anche un internet provider, cioè Google per intenderci, può essere obbligato a bloccare l'accesso a siti pirata, e mi sembra un fatto importantissimo. Quindi difendendo di fatto il diritto d'autore in qualche modo. E questo è essenziale per difendere il diritto d'autore, assolutamente essenziale. È la stessa tesi che in realtà porta avanti anche la nostra Agicom, cioè l'autorità per le comunicazioni, con un nuovo regolamento che dovrebbe consentire proprio di impedire l'accesso ai siti pirata, ecco, senza toccare i consumatori. Ecco, ma anche, cioè, senza nessun aggravio per i consumatori. Senza nessun aggravio per i consumatori. Il tema non è impedire ai consumatori di accedere liberamente alla rete, il tema è impedire che sulla rete girino contenuti protetti senza che venga pagato il diritto. Ecco, ma anche voi sostenete la web tax? Ma guardi, la web tax innanzitutto è un atto di coraggio, nel senso che credo che di nuovo qualcuno per la prima volta si sia posto il problema dell'emorragia di risorse finanziarie, e non solo, perché in realtà quello è compenso di chi lavora, cioè dei creativi, emorragia che non lascia nulla nel nostro paese. Io ho sentito prima le dichiarazioni che riguardavano Google, solo una piccola precisazione, ma perché fa capire il concetto. Google nel 2012 ha superato i 50 miliardi di dollari di fatturato nel mondo e ha creato in Italia 3 posti di lavoro. Senta, Davide da Treviso. Sì, buongiorno. Rapidamente. Mi sente? Sì, prego, parli. Ok, no, su questa cosa qua della web tax io mi trovo abbastanza contrario, perché in Italia siamo sicuramente dei grandi geni sull'invenzione di tasse nuove, ma non del sfruttamento delle risorse che già abbiamo. Se qualcuno è più bravo nel mondo e fa 50 miliardi di fatturato, probabilmente da qualche parte qualcuno ha dormito negli anni, perché comunque in Italia non può essere che noi andiamo a bloccare un'onda che possiamo chiamare l'onda della rete, che è internazionale, cercando nel nostro piccolo di fermare le cose perché ci inventiamo una web tax. Ma d'accordo, ok. Avvocato, mi sembra molto duro questo intervento. Non mi sembra che l'idea sia quella di bloccare alcunché. Bene i 50 miliardi di dollari di Google, il tema è che si paghino le imposte e soprattutto che si paghi il diritto d'autore anche in Italia. Ecco, lei difende, comunque mi pare di capire, il diritto d'autore contro gli interessi delle multinazionali che invece rivendicano la libertà della rete. Ecco, perché qual è il rischio di volere tutto gratis? Ma il rischio di volere tutto gratis può essere un'aspirazione lecita. Ma il rischio di volere tutto gratis è banalmente che nessuno un giorno investirà più in creatività, nessuno più sarà in grado di produrre creatività e probabilmente si andrà verso una nuova fase di mecenatismo, cioè solo chi sarà nelle grazie di Google piuttosto che Amazon potrà continuare a produrre creatività. Però i sostenitori della libertà di rete dicono che il loro diritto di usufruire contenuti gratis è un aspetto della libertà di informazione. No, guardi, non è così. La questione è già stata risolta da tempo dalla nostra Corte Costituzionale, è nella stessa Dichiarazione dei diritti dell'uomo che tutela le creazioni artistiche, scientifiche, così come la libertà di pensiero. Quando io mi approprio del pensiero altrui non sto manifestando. Avvocato, non siete voi che avete dormito un po'? Per chiudere, la SIAE che strategia ha di fronte a questo mondo che cambia? Ma guardi, la SIAE è vero, sta uscendo, oggi sta uscendo dal guscio, deve avete dormito insomma, deve difendere anche e soprattutto il prodotto italiano. Io non so se la SIAE ha dormito, forse ha urlato poco, in questo mondo bisogna urlare di più. Grazie, grazie avvocato, ricordo che la notizia in 3D è stata curata come sempre da Sara Tardelli. Bolle. Partiamo dal salamino? Partiamo dal salamino. Ah, dunque, ho scoperto l'esistenza della grande vacca. Dell'esistenza della grande vacca ne ho avuto scoperta leggendo il nuovo libro di Stella e Rizzo. E qui, proprio perché c'è da andare a salvare questo sud, se muore il sud è il titolo, scopro dei numeri che mi hanno molto impressionato. Voi avevate conoscenza del cosiddetto CIAPI? No. Il CIAPI è il Centro Interaziendale Addestramento Professionale che a Palermo ha formato 18 apprendisti. Quanto è costato? È costato 15.191.274 euro. Dunque sono costati 843.956 ad apprendista. Ad apprendere non si sa bene che cosa. Comunque, leggendo questo libro mi sono spaventata a tal punto che dico: è giusto scrivere i libri sulle regioni, ma non sarebbe molto più semplice abolirle queste regioni? Com'è, Picciotto? Tutto a posto. Mario, bolle tue? Si comincia dalla Grande Germania. Soldaten, Caporalen, Offizielfetusen. Vabbè, qua ci ho avuto la collaborazione di Buttafuoco, come sempre. Franchi ingressi. Certo, Ciccio e Franco. No, vabbè, allora, scherzi a parte. E tu hai prima citato Merkel. C'è un programma di governo. Chi ha varato le larghe intese. È bellissimo perché no, è paradossale. Da noi finiscono e lì cominciano. Dopo pochi mesi. Chissà chi ha ragione. Ma lo dirà la storia, ovviamente. Una cosa è certa, hanno un programma molto dettagliato. Tra l'altro sarà, pare, sottoposto a un referendum tra gli iscritti della SPD, perché non sono tanto d'accordo tutti, non sono tutti d'accordo, ci sono frazioni, sì, esatto, però insomma ci sono dei punti del patto interessante, no? Paga minima per i disoccupati, che comincia a essere una cosa molto seria in Europa, nuove regole, quello che abbiamo cominciato anche a vedere, intravedere nella nostra legge di stabilità. Bisogna vedere come lo finanziano, naturalmente, no? Dice con le tasse, con le pensioni, ma chissà. Super pensioni. Chissà. Nuove regole sulla cittadinanza, anche là, aumenti alle pensioni, tariffe stradali per gli stranieri, totale del budget di spesa 23 miliardi, i programmi dei partiti ne avevano chiesti 50. È sempre una questione di soldi. Ma che bisogno hai di smontare la compagnia? Perché è smontabile, va bene? Se quella gente perde il lavoro, non saprà dove andare. È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Ed eccoci qua, noi siamo la conversazione. E che cosa adatta. Succede? La confessazione è adatta perché la esortazione apostolica del Papa ha tutta una parte legata al business, al capitalismo. Ho cominciato a guardare le reazioni all'esortazione di Francesco e sono interessanti, perché Business Insider l'ha chiosata così: una delle più forti critiche al capitalismo che abbiate mai letto. Penso che oggi gli interventi del Papa comincino a mordere in profondità. Sì, sì, e devo dire, io notavo un'assenza su questo, ma... Altro esperimento, sempre money, sempre soldi. A Seattle si sono raddoppiati la paga minima che era prevista dal governo federale, va a $15. È un segnale piccolo ma molto importante in un paese come l'America. È una storia infinita. Però è tedesca, Michael Ende. Certo, ma sempre infinita è, perché parliamo... Anzi, visto, ho fatto un errore terribile. Michael Ende Michael è tedesco, non... Jawohl, Herr Kommandant. No, è infinita perché parliamo di un libro dei Salmi, molto antico, del 1640, venduto da Sotheby's a New York per la modica cifra di $14 milioni. È il libro più antico degli Stati Uniti, però sai, l'antichità lì parte da vicino per noi, certo, che abbiamo invece i millenni dietro. Cos'è questo? Cos'è? Sorprese su sorprese. I gabbiani. Senti, la chiudiamo così, Giovanni. Battuta fantastica letta sul Messaggero. Pure i gabbiani so coatti a Roma. Terribile. Sono le 9:44 e 35. Viabilità. Mix 24. Сказал ему господину моему, только выдали меня. E questa Pietrangelo? E questa è Marina Vladi, che ieri veniva diffusa con il suo fascino spietato negli aerei che da Trieste tornavano a Mosca, e la Bora, che ci ha portato tanti lucrosi contratti, si è portato via un ex premier. Noi pensavamo che si portasse via Putin proprio Silvio Berlusconi, invece si è portato via Romano Prodi, che assieme a Schröder diventerà un uomo al fianco dello zar di tutte le Russie. Beh, però per adesso non mi pare proprio che abbia fatto quella scelta, Prodi ha detto no quando gli è stato proposto. E ora forse ha detto sì. Non lo so, lo vedremo nei prossimi giorni. Ecco, prima Schröder ha detto sì. Schröder ha detto sì da tanto tempo. Prima... Sai che ha un sacco di mogli, no? E allora gli hanno messo il soprannome Lord of the Rings, il Signore degli Anelli. C'è un altro Signore degli Anelli, poi ve lo racconterò. Ecco, prima di chiedere a Simonelli dove era il canone ieri sera, lo chiedo a Pietrangelo: dove era il canone ieri sera? Ah, il canone ieri sera era in un meraviglioso filmato, perché come vi ho già detto me li rivedo su internet, della Michela Biancofiore, che fa tutta un'intemerata Piazza Pulita per dire che le donne amano i soldi, e mi sono ricordato giustamente di un canone fondamentale su questo, che è Marilyn Monroe, e quindi lei è la nostra Marilyn Monroe, e con Marilyn canta Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape, diamonds are a girl's best friend. La Bibbia, io che passo dalle esortazioni evangeliche, è questo che mette Merini, l'impero irresistibile, solo qualcuno resiste a questo impero. Vorrei dirti che l'impero che resiste di più... E per te dov'era il canone ieri sera, Mario? Minoli, on demand, tu lo sai, solo on demand io. Lo schiaccianoci, mi sono visto lo schiaccianoci. Professor Simonelli, dov'era allora il canone? Diciamo che l'altro giorno, che ieri si è dimenticato Report, Dunque, mi sono dimenticato il report, in realtà non me lo sono dimenticato. Il fatto è che il report di lunedì era un pochettino fragile, ecco, perché intanto c'era un servizio sul caso Astana, insomma un po' vabbè, diciamo che è sempre un gran programma di informazione, sì, ce ne fossero più di uno. Sì, certo, come no. Ho un timore che il pubblico, che pure apprezza, ama, sia così sconfortato, così deluso da quello che succede nella vita politica e civile nazionale, che si fa questa domanda che io giro al pubblico. Va bene, Gabanelli è brava, i suoi inviati sono bravissimi, scoprono delle cose, ma poi non cambia nulla. Beh, allora non tocca mica alla Gabanelli far cambiare le cose, lei sollecita. Tutto diciamo. Vero, però, anzi, spesso seguiva i programmi. Incoraggiamento totale. Per questo, vabbè, non è che per questo, vabbè, ieri sera andiamo avanti. Ieri sera, lasciatemelo dire, perché in questo momento in cui non ho serate calcistiche molto felici, ieri sera era una serata felice e quindi il canone l'ho trovato in un programma di Sky Sport che si chiama È sempre calciomercato. È un programma bellissimo, condotto da un bravo conduttore, Bonan, con dei bravi giornalisti come Crosetti, con degli ospiti ex calciatori, ex allenatori come Dorrico, che discutono amabilmente di cose che si sono già discusse fino alla noia, ma riescono a trovare sempre una chiave nuova. Ieri sera, per esempio, parlavano di possibili acquirenti delle squadre di calcio italiane e lo fanno sempre con un punto di vista originale. Poi fanno delle rubriche che sono vecchissime, i gol più belli della serata di Champions, vabbè, le papere dei portieri, quelli però senza mai dileggiare i calciatori, sempre con una grande leggerezza, vabbè, grande per la delicatezza, professore, sì, lei sì. Ah, okay. Cosa che nel calcio è un programma assolutamente originale nel quadro dei molti programmi calcistici. E altro canone? Altro canone l'ha visto da qualche altra parte? No. Sì. Se, poi posso aggiungere una cosa? Ho tempo? Certo, dica. Allora, in questi giorni gira sui canali cinematografici di Sky, quelli più in là, Sky Passion, Sky Comedy, un film che si chiama Benvenuti a Bordo. È un film francese, una commediola, niente di speciale, che però è stato un grande record di ascolti, di visioni in Francia, record di incassi in Francia. E guardavo questo film in queste serate, il film, come si sa, su Sky circola, no? Per questo lo segnalavo, perché contemporaneamente ho letto un'intervista di Lambert Wilson che ha presentato al Festival del Cinema di Torino, al TFF, un film di Philippe Leguet che si chiamerà In Italia Molière in bicicletta, e parlava di questo boom del cinema francese e diceva una cosa: il nostro, questo attore, cioè il nostro è il miglior pubblico del mondo, e poi abbiamo le sale e una cultura nutrita di cinema, oltre naturalmente alle leggi e al sistema di sovvenzioni legato alla TV. E pensavo a questo film leggero, Benvenuti a Bordo, insomma, il cinema francese sta vivendo questa seconda o terza giovinezza con straordinaria incassi e con una qualità molto alta del prodotto, prodotti più Professore, più articolati e prodotti più semplici, anche grazie all'intervento delle TV. Professore, Rai, insomma, sovvenzionava anche il cinema d'autore. Certo, e credo che tornerà a farlo. Senta, ci scrive un nostro radioascoltatore: Leccapiedi Minoli si sciacqui la bocca quando pronuncia report. Allora, vede che i fan sono tanti, io fra quelli, mi dispiace per il radioascoltatore. La Gabanelli ha lavorato 10 anni a Mixer, ma questo non è importante. Vede, professore, che chi ci lo sono faceva? Tanti, chi lo faceva? Tanti ascolti. Mixer, chi lo faceva? No, un amico mio. Uno. Allora, è colpa mia? No, segnalo. Tante teste, tante idee. Sai che il professore mi ha fatto venire in mente, siccome diceva si parla dell'acquisto delle squadre di calcio, c'è una battuta fulminante di Caltagirone, l'editore del Messaggero, che la mise così: ci sono tre modi di perdere i soldi. Il più divertente è con le donne, il più rapido è con il gioco, ma il più sicuro è con le squadre di calcio. Questo mi sembra che sia un po' vero. Secondo ma me è però vero. Non sempre. Dunque, intanto siamo in finale. Oggi con una storia Mix 24 ricordiamo Il mistero italiano di Argo 16, un aereo dell'aeronautica militare precipitato il 23 novembre del 73 a Marghera, una cospirazione del Mossad o un incidente, subito dopo il giornale radio a cura di Marina Milone.